non so quasi dire tutto ciò che ho nel cuor. Tu però puoi capire la canzone dell'amor, questa semplice canzone che ti parlerò. Yeah.